Storie di imprenditori e innovatori, il genio silenzioso di Brunello Cucinelli. Quando si parla di imprenditoria illuminata, spesso emergono nomi di giganti come Jeff Bezos e Elon Musk. Ma c'è un imprenditore italiano, lontano dai riflettori mainstream, che ha trasformato un piccolo borgo dell'Umbria in un simbolo di eccellenza globale, Brunello Cucinelli. La sua storia non è solo quella di un successo economico, ma un viaggio visionario in cui i valori umani, la bellezza e l'organizzazione aziendale si intrecciano in modo unico. Dalle umili origini a un impero del Kashmir. Nato nel 1953 in un piccolo paese vicino a Perugia, Brunello crebbe osservando il padre lavorare in condizioni che definì spesso disumane. Questa esperienza lasciò un segno indelebile, ispirando il suo desiderio di costruire un'azienda che mettesse le persone al centro. Nel 1978, con pochi soldi ma un sogno ambizioso, Cucinelli decise di specializzarsi in un prodotto di nicchia, il Kashmir colorato. A quei tempi il cashmere era considerato un tessuto di lusso, ma limitato a pochi colori tradizionali. Cucinelli intuì un'opportunità: trasformare il cashmere in un prodotto elegante ma vivace, capace di attirare un pubblico più ampio. Un modello di business basato sulla dignità. Cucinelli fondò la sua azienda Solomeo, un piccolo borgo medievale che lui stesso restaurò per farne il cuore pulsante della sua attività. Ma ciò che rende unica la sua impresa è il capitalismo umanistico, un modello che minaccia profitto e benessere dei dipendenti. Centralità dei lavoratori, gli operai e artigiani lavorano in ambienti luminosi e confortevoli, con pause regolari e orari che rispettano il loro equilibrio personale. Valore del tempo, le giornate lavorative finiscono puntualmente alle 17:30. Per Cucinelli il tempo libero è essenziale per la creatività e la serenità. Sostenibilità sociale e ambientale. Dai tessuti naturali alla riqualificazione del borgo, ogni scelta riflette un impegno verso il futuro. Il successo attraverso la lean manufacturing umanistica. Sebbene non utilizzi esplicitamente il termine, molte pratiche di Brunello Cucinelli rispecchiano i principi del lean manufacturing. Riduzione degli sprechi. La produzione si basa su un'attenta pianificazione per evitare scorte eccessive e garantire l'esclusività del prodotto. Qualità sopra la quantità. Ogni capo è realizzato con attenzione meticolosa, assicurando standard elevati che giustificano il posizionamento di lusso. Empowerment dei dipendenti. Gli artigiani hanno autonomia e responsabilità, contribuendo a un prodotto finale che porta l'impronta della loro maestria. Risultati straordinari. Oggi Brunello Cucinelli è sinonimo di lusso etico. Il suo marchio è apprezzato in tutto il mondo e l'azienda continua a crescere con margini elevati e una reputazione invidiabile. Ma ciò che distingue Cucinelli non solo sono i bilanci, l'idea che un'impresa possa prosperare senza sacrificare la dignità umana. Lezioni di leadership per il mondo moderno. La storia di Brunello Cucinelli è un promemoria potente che l'innovazione non riguarda solo i prodotti, ma il modo in cui pensiamo e organizziamo il lavoro. Ecco alcune lezioni che possiamo trarre. 1. Valorizzare le persone. Un ambiente di lavoro rispettoso e creativo non è solo etico, ma strategico. Dipendenti felici producono risultati migliori. 2. Scegliere la qualità. In un mondo dominato dalla fast fashion, Cucinelli dimostra che c'è spazio per chi sceglie di puntare sull'eccellenza. 3. Unire tradizione e innovazione. Il cashmere di Solomeo è un prodotto antico, ma è stato reinventato per rispondere ai gusti moderni. E voi, come bilanciate innovazione, organizzazione e rispetto per le persone nelle vostre realtà? Condividete le vostre riflessioni nei commenti.